La rosa purpurea di Franco d'Assisi. Un saluto a tutti gli amici, buona Pasqua dalla Rosa Purpurea, Franco d'Assisi in studio, da tutta la nostra redazione, da tutti i nostri collaboratori. Siamo arrivati alla puntata di questo che è l'ultimo weekend, diciamo così, di alta stagione cinematografica per quanto riguarda appunto l'anno cinematografico 2010-2011, perché è l'ultimo fine settimana nel quale qualcosa si aggiunge, anche se quest'anno col fatto che Pasquetta è il 25 aprile, corrispondono, c'è forse un giorno in meno per cui fruire appunto di cinema di massa, ma insomma anche la proposta, devo dire, non è granché veramente in questo weekend. Forse faranno e lavoreranno di più i film che erano già in sala da qualche giorno, per esempio il film di Nanni Moretti, che vedremo, è partito molto molto forte, pur non toccando la prima posizione in classifica ma occupando la seconda, ma con un incasso notevole per il primo fine settimana. Insomma, sarà come sempre una corsa di un'ora nell'attualità cinematografica, con tutti gli excursus del caso anche per quello che propone la TV e l'home video. Cominciamo subito allora a sentire i temi principali della trasmissione, dei titoli di testa. La favola più famosa dei fratelli Grimm, rivisitata dalla regista di Twilight Catherine Hardwicke, che torna sul grande schermo con Cappuccetto Rosso Sangue. Esce in Italia L'altra verità, il nuovo film di Ken Loach, che rivela i torbidi retroscena della guerra in Iraq tramite la storia di due amici contractor finita nel peggiore dei modi. Cerco mio fratello e faccio un salto a L'Avana. Francesco Pannofino ed Enrico Brignano, protagonisti della commedia italiana della Pasqua al cinema. Jennifer Lopez e Mark Anthony sono i protagonisti di El Cantante, il film sulla vera storia di Héctor Lavoe, il cantante portoricano che ha fatto conoscere la salsa agli Stati Uniti. E insomma, questo è il menù, c'è anche la salsa, mi viene da dire, per cui facendo una battuta. Insomma, questo è il menù di Pasqua. Noi cominciamo con Cappuccetto Rosso Sangue. Come avete sentito nei titoli, la regista Catherine Hardwicke è quella di Twilight. I protagonisti no, ma sembra. Amanda Seyfried, Gary Oldman, perché chiaramente quando ci sono queste corse produzioni pecunia non olet. E insomma una serie di bei giovani baldi che si contendono la biondissima Amanda Seyfried in una storia che voleva essere una sorta di riambientazione, di remake, se vogliamo, remake in termini anche proprio di storia, non fiabesca ma un po' più horror, di Cappuccetto Rosso. La storia è presto detta, un villaggio, devo dire, molto ben ricostruito, Valerie, una bella ragazza che però è divisa a livello sentimentale fra l'amore per Peter, che è un ragazzo de borgata, tanto per intenderci, e invece Henry, che è il figlio altolocato del niente meno del fabbro del villaggio, che però essere fabbri all'epoca evidentemente portava abbastanza bene e abbastanza guadagni. Insomma, il nobile Henry, l'altro, l'outsider, è Peter. Lei è un po' divisa, è promessa sposa al ricco ed è innamorata del povero, come in ogni favola, ma tanto per non farsi mancare niente, in questo schema amoroso arriva in questo villaggio la presenza di un lupo mannaro davvero letale, un vero e proprio carnefice che si apposta fuori da questo luogo, e appena arriva la notte di luna piena, come da copione, colpisce in maniera molto dura. Uccide la sorella di Valerie, e noi cominciamo subito con il sentire una prima clip al momento in cui appunto questo efferato omicidio è successo. Il villaggio è molto scosso. Sta attento. Ho perso mia sorella, non posso perdere anche te. Possiamo più amarci. Ti devi rassegnare. Dovrei sposare Harry. Ma lo sai che io non voglio. Stai inventando una cosa che non c'è. Ci siamo divertiti. Non era altro che questo. No, non è vero. Ecco, questa, mentre gli è morta la sorella e il villaggio è sconvolto, trova il tempo di parlare, come avete sentito, di queste amenità. Ma nel villaggio arrivano i rinforzi quando comincia la caccia vera al lupo, perché la caccia consiste nel lasciare una vittima sacrificale all'aperto la notte di luna piena. Il lupo arriva e insomma questo è il conteggio che si fa, però arrivano i nostri, dicevo, una sorta di crociati che ci difendono dal male, capitanati niente meno che da Gary Oldman. Durante la settimana della luna di sangue, il lupo mannaro passa ad altri la sua maledizione con un solo morso. Durante la normale luna piena, il morso di un lupo vi uccide. Ma con la luna di sangue, le vostre anime sono a rischio. Finché la luna di sangue non sparisce, per 3 giorni, non sarete mai veramente al sicuro. Siamo al sicuro adesso. Ho ucciso il lupo nella sua tana. Nella caverna sul Mont Grimmore. Siete stati ingannati da quella bestia fin dall'inizio. Vi ha fatto credere di vivere sul Mont Grimmore e in questo modo non l'avreste cercato nel più ovvio dei posti. Il lupo vive qui. Il lupo vive qui e vive dentro qualcuno, insomma, il lupo inside, potremmo dire. Insomma, avete capito dai toni che insomma viene fuori un po' una baracconata, tanto per intenderci. Il film non va un po' da nessuna parte, tranne la sua presunta spettacolarità. Io chiamo in causa Boris Sollazzo, che è in collegamento con noi, al quale auguro buona Pasqua. Ciao Boris. Buona Pasqua a te e a tutti gli ascoltatori, Franco. Boris, però posso dire una cosa, io l'ho trovata come una sorta di trasfusione, visto che parliamo di lupi mannari, di trasfusione di Twilight dentro Cappuccetto Rosso. Assolutamente d'accordo, io lo definirei Cappuccetto Rozzo e Sangue, per appunto definire questo film che è di fatto uno spin-off di Twilight in tutto e per tutto, come dici tu. Amanda Seyfried non era in Twilight, ma poteva essere tranquillamente nel cast senza problemi. Il film vive secondo me sul fatto che le 7 trame che ha al suo interno, che tu hai brillantemente sintetizzato, un minimo di interesse per default la suscita. L'altra è che la Cappuccetto Rosso Amanda Seyfried vale da solo il prezzo del biglietto, e poi che comunque la Hardwick è una che sa dirigere bene e che quindi riempie i vuoti di sceneggiatura e i vuoti di noia del film con una capacità, come fece già con Twilight, con una capacità di usare la macchina da presa che in effetti probabilmente un po' di fumo negli occhi lo getta. Però mi sembra che la tua definizione di baracconata renda benissimo l'idea del film, nel bene e nel male. Anche assolutamente. Nel bene, per se può piacere. Sì, insomma, no, c'è qualcuno che ha detto, l'ho trovata molto spiritosa come definizione, che è un film fatto apposta per poter riprendere il mantello rosso di Cappuccetto Rosso sullo sfondo della neve. Ecco, insomma, questo per dire che c'è sempre una ricerca estetizzante, appunto molto alla Twilight. E io, per farvi capire quanto Twilight ci sia in questo film che fa rivoltare nella tomba i fratelli Grimm, voglio farvi ascoltare questa clip. Credevo che tu ci tenessi a Valerie. Certo che ci tengo. Ci tengo tanto. Cerco solo di usare il cervello. Va al granaio. Certati che la ragazza sia al sicuro. Allora hai intenzione di salvarla? Ti do una mano. Non sono così disperato. Ah, davvero? E qual è il tuo piano, eh? Lo vedi, non ce l'hai un piano. Li hai visti quei lucchetti? Io ho una bottega e ho gli attrezzi. Ecco, state sentendo, insomma, ditemi se non è un dialogo che poteva essere quello fra il licantropo e il vampiro in Twilight. Il 17 settembre erano sulla Route Irish al momento dell'attacco. La Route Irish? Route Irish è un nome convenzionale della strada che dall'aeroporto di Baghdad porta alla zona verde. Stavano andando a prendere un fotoreporter spagnolo al Baie, l'aeroporto internazionale di Baghdad. Come si chiamava? Si chiamava Sergio Perez Mingas. Ah, di quale giornale? Ha qualche importanza? Sì. Avete sentito una sorta di incipit, una sorta di antefatto di L'altra verità, il nuovo film di Ken Loach, nuovo fino a un certo punto perché è stato presentato un anno fa a Cannes e arriva finalmente nelle sale italiane. Route Irish, appunto questa strada la più pericolosa al mondo, si dice, che sta a Baghdad, è anche il titolo originale del film. È la storia di un ex contractor. Le figure centrali, principali di questo film sono i contractor, insomma questi soldati di ventura. Qualcuno li chiama mercenari, insomma soldati a pagamento che non fanno parte di eserciti regolari ma che sono pagati dai governi per diciamo così rimpinzare le fila delle truppe appunto nei fronti di guerra, in questo caso in Iraq. Fergus è un ex contractor di sicurezza privata che è tornato dall'Iraq e, come avete sentito, il momento era molto teso perché è il momento in cui viene spiegata, raccontata la morte del suo più grande amico, Frank. Frankie, che era rimasto in Iraq ed è stato ucciso in circostanze che le autorità, come avete sentito, cercano di definire un normale fronte di guerra, una disgrazia di guerra, un incidente. In realtà Frankie non ci crede dall'inizio, avete sentito, fa domande, mette anche un po' in crisi la controparte. Chiaro che quello che succederà è evidente, cioè Frankie non si accontenterà delle risposte ufficiali, andrà a cercare l'altra verità che sta dietro la morte di Frankie. Fergus cerca questa verità perché oltre a ridargli e permettergli di fare giustizia alla sua maniera, cosa che farà regolarmente, gli permetterà anche e permetterà allo spettatore di svelare il retroscena che ci sta dietro queste figure. E fra poco sentiremo anche Ken Loach, che ha raccontato proprio come questo fosse il senso vero del film. In mezzo in questa storia c'è anche una storia d'amore, una storia di un amore finito, che è quello fra la donna di Frankie e appunto il contractor ucciso, ma anche quello di un amore che nasce, che è quello fra la stessa donna e Fergus, quasi che questa grande amicizia fra i due potesse poi afferire a una sola donna, a un solo valore sentimentale. E allora sentiamo questo momento nel quale questa ragazza arriva con le ceneri di Frankie, perché tutto sommato una parte è giusto che vada proprio al suo grande amico. Quello che volevi. Un po' delle ceneri di Frankie. Lo trovo giusto. Se non era con te, stava sempre a parlare di te. A essere sincera, ero gelosa. Mi rendevo conto che non era andato là in Iraq per i soldi. C'era andato per stare con te. Dai, non dire cazzate, per favore. Credo che ti amasse. Affanculo, Regge. È stato guardando tra le sue cose. Mi sono resa conto che forse non lo conoscevo. No, Regge, ti sbagli. Sì che lo conoscevi. Conoscevi la sua parte migliore. Quella senza il fucile in mano. E questo è un toccante discorso, appunto. Ci sono alcune cose, a mio modo di vedere, che non funzionano in questo film. Diretto da Ken Loach, sceneggiato da Paul Laverty, lo staff è sempre lo stesso, interpretato da Mark Womack, John Bishop e Najiwa Nimri. Dicevo, alcune cose che non funzionano. Ferma la nobiltà di ogni progetto di Ken Loach, la sua voglia di verità, di giustizia e quindi di un cinema sempre civile e impegnato. Sotto il profilo strettamente cinematografico è un film che stenta un po' a decollare, stenta un po' a fare cambi di marcia, è un po' lo stesso dall'inizio alla fine. Questo forse è il suo più grande difetto, che cade, a mio modo di vedere, in alcuni momenti così di impasse, per non dire di noia. C'è poi un limite, a mio modo di vedere, aggiunto da un doppiaggio italiano, questa volta non particolarmente azzeccato nell'accoppiamento voce-situazione, ma anche proprio nell'esecuzione, perché ci sono momenti come una vera e propria tortura a cui Fergus sottopone il cattivo di turno per estorcergli la verità, che non rendono proprio nei suoni, nella concitazione della voce, quella che è la situazione che sono convinto, sono sicuro, in originale verrebbe fuori. Insomma, anche questo forse raffredda un po', mette un po' un panno freddo su un film che invece vorrebbe creare emotività e partecipazione a questa, che è una causa importante. Boris, so che non sei del tutto d'accordo, ma è il bello della vita anche questo. Non sono del tutto d'accordo, ma lo sono abbastanza, nel senso, cinematograficamente ammetto i limiti che tu hai appena citato e ti confermo che la versione originale è molto meno piatta di quella italiana e ha la profondità soprattutto nei momenti clou, che a livello proprio di sonoro oltre che di voce dei protagonisti, che tu denunciavi non esserci nella versione italiana. Nel film, appunto, visto a Cannes, c'è tutt'altra forza. A Cannes era stato, tra l'altro, il film a sorpresa, perché è finito appena in quel momento. Io trovo molto interessante, soprattutto per gli appassionati di Loach, però, Ralph Irish, che poi è diventata un'altra verità in Italia, perché da quando il mondo è cambiato, da quando le ideologie sono cadute, è successo qualcosa nella testa di Loach. Ed è stata la caduta di alcuni ideali, di alcune ideologie anche nel suo cinema, e quindi dopo, in questo mondo libero in cui faceva sostanzialmente fare a una precaria la padrona dei precari, qui guarda La guerra ad altezza di Contractor non fa una divisione netta tra buoni e cattivi, almeno per quanto riguarda le categorie, poi chiaramente li trova, e quell'altra verità è una verità durissima da accettare. Lui cerca una verità che probabilmente nel momento in cui la trova non vorrebbe aver trovato, ed è un revenge movie. Per la prima volta il buon Butch non trova in una possibile rivoluzione o in una possibile giustizia il giustiziere, ma si fa giustizia da solo, e questo secondo me è il segno, insomma, di un nichilismo che noi non conoscevamo e di un cambiamento della nostra società molto forte che riconosce anche Loach. Quindi in questo senso è un film molto imperfetto, sono d'accordo con te, anche per colpa di Laverty. L'unico film buono con Laverty che ha fatto, secondo me, veramente ottimo, è quello Looking for Eric. Però è anche un film, secondo me, socialmente e politicamente molto importante. Allora, andiamo a sentirlo Ken Loach parlare proprio di questo film nel corso della conferenza stampa di Cannes, rivelare appunto quello che era l'intento vero che stava dietro questa operazione. Sentiamo. The Iraq war and what happened there quello che è successo durante la guerra in Iraq è un tema con il quale Paul e io ci volevamo confrontare da parecchio tempo. E la domanda che ci siamo posti era non se l'avessimo dovuto fare o meno, ma come. Durante questa guerra ci sono stati tantissimi crimini illeciti. Abbiamo tollerato anche la tortura. C'è stata molta corruzione in questa guerra causata dall'avidità, dalla pura avidità. E la sfida per noi era trovare una storia e un personaggio che avrebbe dovuto rappresentare lo scenario di ciò che è successo veramente in Iraq. Così Paul ha scritto i personaggi di Fergus e del suo amico Frankie, con la speranza che servisse a svelare tutti i crimini che sono successi in questo conflitto. In fondo, questa è solo la storia di due persone, ma tramite questa speravamo di rivelare l'orrore di questa guerra. The horror of the war. E questo era Ken Loach che parlava di L'altra verità, Ruth Irish, nei cinema italiani. Noi siamo arrivati alla prima finestra sul DVD game. Andiamo a sentire la prima traccia misteriosa del film da indovinare di oggi. Vuoi portarla a casa mia, darti una ripulita e uscire dal bagno tutto profumato nella speranza che lei ti dica: oh, ti avevo mal giudicato. No, Buddy, no, voglio solo parlarci, nient'altro. Se avete già indovinato di che film si tratta, diteci il titolo, vostro indirizzo di posta privata, così facciamo prima eventualmente a spedirvi il film. Il più bravo del sabato e della domenica lo vinceranno. La Rosa Purpurea, @radio24.it, il nostro indirizzo di posta elettronica per provare a scrivere e a vincere. Più tardi ci saranno ancora un paio di possibilità. E andiamo avanti con un altro film che arriva nelle sale italiane e che ha nella locandina, se vogliamo, il suo migliore motivo di interesse. Già questo potrebbe essere un giudizio, intendo che i nomi sono quelli di Jennifer Lopez e di Mark Anthony. Mark Anthony, che forse non tutti conoscono nella sua popolarità, ma che è uno dei personaggi più popolari al mondo in assoluto come cantante di musica latinoamericana. Insomma, questa coppia insieme significa ballo, canto, musica, in questo film che appunto si intitola El Cantante e che racconta la vera storia, ascesa e caduta, di un cantante di salsa, Hector Lavoe, che poi nella verità morì nel 93, raccontato dalla prospettiva della moglie. Andiamo ad ascoltare il trailer. L'America lo scoprì. 12 album, prima in classifica per 7 volte. Madison Square Garden. Riusciva a riempirlo tutto. Voglio i miei soldi! Una donna riuscì a capirlo. Piccola, se non sposti il tuo culo, non vedo il suo di culo. Questo lo puoi toccare. Questo lo puoi avere. Quella là, scordatelo. Ma nessuno riuscì a proteggerlo. Era sempre fatto di droga. Da se stesso. È la terza volta questo mese. Io ti voglio bene, amico. Anch'io sono pieno d'amore e sono sempre in orario. Voglio sentirti dire che cercherai di farlo funzionare. Puoi cantare lo stesso. Puoi sorridere lo stesso. Io soy el cantante. Yo ya han venido a escuchar. Ispirato a una storia vera. Jennifer Lopez, Mark Anthony e il cantante. E allora questo è il cantante, il trailer. Boris, quello che mi viene da dire è che è un film che mi sembra molto molto lontano dal pubblico italiano, al di là delle sue eventuali qualità o probabili difetti, però insomma mi sembra proprio un film, non voglio dire chi se ne frega, però ecco, cioè, in Italia forse rispetto a questo tipo di storia e a questo tipo di personaggio non c'è tantissima sensibilità. Beh, Franco, è difficile dire qualcosa in più di quello che abbiamo sentito dal trailer. Credo che il trailer sia molto fedele rispetto alla qualità del film e all'interesse che può suscitare nel pubblico italiano il film. Hai ragione su questo, cioè, al di là del fatto che è un film, secondo me, decisamente scadente, anche perché la coppia sul set e nella vita, Jennifer Lopez e Marc Anthony, lascia davvero a desiderare come recitazione, e non parliamo, insomma, per rispetto umano della regia, però è vero che è come vedere un film di Bollywood, uno di quei film insomma classicamente di Bollywood, in Italia non avrebbe senso, cioè sono veramente quei generi locali, un po' insomma come portare, che ne so, i primi film di Tiani in Alaska, non avrebbe un grosso senso, e quindi in questo senso è davvero difficile trovare anche un elemento di interesse per chi possa amare quel salsa trash, è proprio il caso di dirlo, di cui Jennifer Lopez e Marc Anthony si dimostrano campioni. Sono d'accordo con te, manca il motivo di interesse al di là della qualità. Io ve l'avevo detto che il clima musicale restava lo stesso. Eccolo qua, faccio un salto all'Havana. Siamo a Cuba questa volta e ci siamo con il cinema italiano. Il regista è Dario Baldi, uno che a Cuba ha dedicato anche altri film, altra parte del suo lavoro. Gli attori sono Enrico Brignano e Francesco Pannofino, nei panni dei due protagonisti, due fratelli di segno e di carattere assolutamente opposto, uno un po' azzeccagarbugli, l'altro assolutamente ligio. Da 6 anni del fratello azzeccagarbugli, cioè di Francesco Pannofino, Vittorio, non si hanno più notizie, non si hanno più segni, la sua macchina era stata ritrovata in fondo a un lago, insomma lo si dà per morto da tempo, fino a quando invece non spuntano tracce che lo danno per vivo e all'Havana. E allora a questo punto Fedele, cioè Enrico Brignano, parte alla volta dell'Havana e va a cercare il fratello con una sola foto in mano, e si trova in un mondo che è un mondo veramente a parte, sin dal suo arrivo all'aeroporto. È brutto arrivare all'aeroporto e nessuno ti viene a prendere, però d'altronde né lei né io siamo venuti a Cuba per fare sesso. Siamo qui per le donne. Che vai a cercare? Mio fratello. Sì! Chi ha per caso mai visto quest'uomo? Signorita, escúcheme, esto es el ron mejor de toda Cuba. Oh, ma che ci stai a provare con me? Io sono di Roma, eh? Eh? Poi ti sei manco cubano. Ah no? Tu che sei di Cuba, sei cubista. È mio fratello! Avete fatto un ricambio di persona. Senti, tu come ti chiami? Alma. Stai molto Alma con me, hai capito? Vittorio! Come carattere hanno ripreso dal padre, però hanno preso le cose migliori dalla madre. Tu struzzi. Al mercato! Con me ci vieni mai? Ti faccio parlare con una signora. Ma va, mori ammazzato. Quello che passa, tranquilla. Guarda, io non lo capisco lo straniero, ma la voce della zozza la riconosca, hai capito? Ha scappata da casa! Io adesso vado dai carabinieri cubani e li faccio bucare il pallone. Certo che stai bene per essere morto. Madonna, però che te sei magnata a bara con tutti i fiori? Al centro della salita. Beh, insomma, avete sentito un condensato delle battute del film. Arrivato sul posto, Fedele cade vittima anche lui di uno dei tipici raggiri in salsa cubana, ovvero viene così accalappiato da una bellissima ragazza, Aurora Cossio, che dovrebbe così circuirlo e cercare poi di ricattarlo. Ma insomma, il ricattatore è niente meno che suo fratello. fratello, e qui arriva la ricongiunzione. Da qui in poi i due caratteri si ritrovano e soprattutto capiscono quante differenze ci sono fra loro nel seguito del film. Un film sul quale quando ho visto l'anteprima ero molto molto severo, devo dire. Sono uscito soprattutto nella prima parte, l'ho trovato veramente pieno di grandi buchi di sceneggiatura, difetti, cose che si perdono. Ora, riascoltando il trailer, non che abbia cambiato molto idea, però tutto sommato sono anche più come dire, propenso a una, non dico una soluzione, ma insomma della comprensione, perché effettivamente qualcosa funziona nel film, e sono soprattutto le situazioni che la comicità di Brignano, a mio modo di vedere, non adatta al cinema quanto invece lo è alla televisione e al teatro, però porta qualcosa di fresco, qualcosa di particolare. Pannofino, che vive un momento d'oro anche a livello cinematografico, oltre a essere uno dei più grandi doppiatori italiani, fra poco lo sentiremo, invece a mio modo di vedere è un personaggio troppo caricaturale, che incide troppo sul film e gli mette troppo peso addosso, invece di aggiungere leggerezza, di aggiungere volatilità, che forse è quello che questo film di cui questo film necessiterebbe. Boris, il tuo parere su Faccio un salto all'Avana? Guarda, io sarei d'accordo con te se il film durasse quanto il trailer, questo sì. Il dramma è che poi, appunto, risentendo il trailer sembra migliore di quello che è. Tra l'altro, secondo me nel film non c'è la cosa migliore, cioè che oltre a vedere Aurora Coscio è la voce di Brignano. Brignano canta una versione di Perfidia straordinaria, lui è stato anche rugantino, quindi è molto intonato, è molto bravo a cantare, e quella temo che sia la parte migliore del film. È curioso che per un Fidel che se ne va dal Partito Comunista Cubano c'è un Fidel che arriva a L'Avana, che è appunto Fedele, che viene soprannominato subito Fidel lì a L'Avana. Non so se vuole essere una cinecolomba estiva, forse con un po' di volgarità in meno, ecco, rispetto a quello che ci si potrebbe aspettare dalla cinecolombo o dal cinepanettone. È un film che fa un po' a meno dello sketch, un po' fine a se stesso, ha forse delle velleità un po' diverse, però appunto questa discontinuità, succedono delle cose che poi non hanno seguito, insomma è un po' dispari in questo, ed è vero, forse mi sono fatto rabbonire proprio dal trailer, che effettivamente mette dentro un po' le parti migliori. È vero che la canzone cantata dal buon Brignano è veramente notevole, però noi abbiamo incontrato, a margine della presentazione milanese del film, Francesco Pannofino, perché, come ripeto, uno dei più grandi doppiatori italiani, attore protagonista di questo film, e gli abbiamo chiesto soprattutto appunto come sia stato girare a Cuba e vivere questo posto, L'Avana, che è uno dei posti mitici del mondo. Sentiamo. Allora, Francesco, innanzitutto cos'è stato girare, immagino che molto sia stato girato comunque on location, cos'è stato respirare quest'aria di Cuba, insomma, in un film? Ma veramente io ho girato solo a Cuba, sono stato un mese di luglio dell'anno scorso, è stata un'esperienza straordinaria, perché insomma non è che capita tutti i giorni di andare lì, e mi è capitato di vivere Cuba anche non come turista sciocco, diciamo, come ce ne sono tanti, ma lavorando. Poi avevo conosciuto un italiano che stava lì da tanti anni, che è amico del regista, di Dario Baldi, e lui mi ha fatto conoscere insomma Cuba anche non, insomma, anche fuori dai giri turistici, diciamo, convenzionali. È un paese molto, molto complesso, per capirlo ci vogliono anni, e forse neanche bastano. In un mese si può solo intuire un po' il grosso, ma insomma io sono contento di aver letto che adesso aprono un po' al mercato, all'iniziativa privata, perché pur essendo garantite le necessità primarie, il cibo, la sanità e l'istruzione, che andavano bene ai tempi della rivoluzione, ma poi andavano fatte delle riforme che non sono mai state fatte, e quindi quella popolazione è un po' bloccata, un po' ferma nel tempo, e purtroppo non c'è, quando è inutile essere bravi, no? Certo. Perché tanto non si può fare, non cambia niente. Secondo me il popolo si appiattisce, si inaridisce, sì. Infatti vedo tanti giovani lì così un po' con l'allegria dei Caraibi, ma con sì, un po' sì, devo dire, ho notato un po' questo. Senti, e invece il tuo personaggio, stranamente per il cinema, non è un donaiolo ma un truffatore, cioè sì. Va lì a fare qualcos'altro, ma le donne quasi non gli interessano. No, anzi ne scappa, perché scappa da Roma, dalla moglie, dai figli, dal suocero padrone, e si finge morto, e come un novello Mattia Pascal va a Cuba a cercare fortuna e organizza delle truffe con Alma de Dios, che è la ragazza che è interpretata da Aurora Cossio, e fa diciamo queste piccole truffe ai turisti. Uno di questi malcapitati è Enrico Brignano, che fa Fedele, che è mio fratello, e per caso ci incontriamo, c'è una bellissima scena di incontro, e da lì poi parte tutto il film, tutta la storia. Senti, per un grande doppiatore come te, ti immagineresti doppiato in un film? Ma io penso che mi abbiano doppiato, perché qualche film che ho fatto è andato all'estero, però non mi sono mai sentito con un'altra voce. No, mi piacerebbe, sarei curioso. Grazie. Grazie a te. E questo era Francesco Pannofino, protagonista insieme a Enrico Brignano di Faccio un salto a L'Avana, qui alla Rosa Purpurea. È arrivato il momento di giocare nuovamente con il film misterioso di oggi, sentiamo. Perché non hai sparato a quei due? Di cosa ti occupi di solito? Truffe? Evasioni d'imposta? Borseggi? Karen, nei miei 15 anni di servizio ho svolto ogni genere di indagine, chiaro? Hai mai sparato ad un uomo? La Rosa Purpurea, @radio24.it, l'indirizzo a cui scrivere di che film si tratta per provare a vincere il Blu-ray. Anche in questo caso giochiamo con l'alta definizione di questo film. Più tardi ci sarà l'ultima traccia. E allora salutiamo Boris Sollazzo, che è stato davvero gentile e carino con noi per averci accompagnato in questo excursus sul cinema di Pasqua. Insomma, come avete capito, nessun film ci ha convinto in pieno, ci ha fatto alzare in piedi sulla sedia. Forse Boris, quello che di meglio c'è ancora in sala, era già in sala, e faccio cenno alla classifica in questo senso prima di salutarti, perché lo scorso weekend al primo posto è andato Rio di Carlo Saldagna, il bel film d'animazione sulla storia del pappagallo che vuol tornare a Rio de Janeiro. Ma al secondo posto, con 1.300.000 euro incassati nel primo fine settimana di programma, troviamo Abemus Papam di Nanni Moretti, e al terzo Limitless di Lee Burger, che a me è piaciuto moltissimo, l'ho trovato un film veramente molto molto divertente. Questo a dire, insomma, che c'è un podio che è più qualitativo di quello che arriva questa settimana di Pasqua. Confermo che per me il secondo e il terzo, Abemus Papam e Limitless, sono il consiglio anche di questa settimana, uno per il cinema più impegnato, l'altro per il cinema un po' più divertente e divertito, quindi vi saluto con questo consiglio, andate a recuperare quello che è uscito il 15. Grazie Boris, grazie mille per essere stato con noi, buona Pasqua ancora anche a te. Buona Pasqua a tutti. E allora, abbiamo esaurito la nostra gita fra i luoghi delle uscite cinematografiche di questo weekend, i film nuovi che arrivano nelle sale in questo fine settimana. Vedremo un po' come saranno andate le cose al botteghino la prossima. Abbiamo detto dei vertici della classifica di questo weekend. Vado avanti con The Next Three Days di Paul Haggis, che è quarto. Al quinto posto Scream 4, un film poco pasquale, che però partiva proprio lo scorso weekend, firmato Wes Craven, un horror che è ancora un'ennesima perla di una saga molto affermata. Sesto posto per C'è chi dice no di Giambattista Avellino, ne avevamo parlato due settimane fa, il film contro e sui raccomandati, e quindi Paola Cortellesi, che è appunto mattatrice di questo film. Poi Se sei così ti dico sì, il film con Belen Rodriguez, invece, che è partito maluccio, 260.000 euro al primo weekend di programmazione, settimo posto in classifica. Voglio anche darvi una notizia prima di dare la linea alla regia, perché ha debuttato, è uscito proprio questo fine settimana in più di 500 copie in Francia, ed è il debutto alla regia di un attore che mi sta particolarmente a cuore, uno dei miei attori preferiti in assoluto, ma penso che lo sia anche per molti di quelli che ci ascoltano, Daniel Auteuil, uno dei più grandi attori francesi, che all'età di 61 anni esordisce alla regia con questo film che si intitola La fille du Pusatier, spero di aver pronunciato bene, una sorta di ritorno all'origini per Daniel Auteuil verso l'opera originale di Marcel Pagnol, che gli diede notorietà, vinse il César nell'87 per Jean de Florette, appunto, quindi c'è una ricongiunzione con un regista che è stato molto importante per la carriera di Daniel Auteuil. Adesso lui, con il remake proprio di un film di quel regista, esordisce alla regia e sbarca nei cinema francesi. Abbiamo dato un'occhiata ai palinsesti delle TV di questa settimana, come sempre con gli amici del settimanale Film TV, e sentiamo quali sono le scelte che ha effettuato per noi Sara Sagrati. Ciao Franco, un saluto a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Oggi parliamo di film di guerra. Diciamo che Film TV ha voluto così, celebrare la Pasqua parlando invece di film che toccano la guerra, sebbene da punti di vista molto inediti. Lunedì sera, 25 aprile, su Italia 1 alle 21.10 andrà in onda Inside Man di Spike Lee, che per chi l'ha visto dirà: ma come, è un film di rapina, cosa c'entra la guerra? In realtà questo è un progetto che Spike Lee ereditò da Ron Howard, quindi è un lavoro fatto su commissione, una storia appunto di rapina. Quattro uomini e una donna entrano in una banca travestiti e sequestrano tutte le persone presenti per compiere appunto una rapina, e al di fuori un poliziotto indaga. In verità Spike Lee, guardando a questo avvenimento, creando tensione, ci sono tutti i topos del genere, ci racconta le macerie dell'11 settembre con personaggi che sono alla ricerca sempre di qualcosa d'altro e personaggi che scavano proprio sotto quell'etica di un paese che forse sta cambiando. E questo quindi il consiglio, un grandissimo film, Inside Man, lunedì 25 aprile alle 21.10 in prima serata su Italia 1. Raccontaci la tua seconda scelta invece. Più nel genere war movie, quindi film di guerra, è sicuramente invece Gunny di Clint Eastwood, che andrà in onda su Rete 4 alle 23.35 di martedì 26 aprile. Più di guerra, ma in realtà forse è anche qualcos'altro, perché Eastwood, che sicuramente è un uomo di sani principi americani, all'epoca, ed era l'86, fece un film dove lui è un addestratore pluridecorato, reduce da Vietnam e Corea, che appunto deve tirar su le nuove reclute dell'esercito, ma lo fa in maniera ironica, autoironica. Addirittura Mario Van Peebles canta in questo film. Forse molto più che un war movie è una critica a quel militarismo reaganiano esasperato dell'epoca, che sicuramente a lui non piaceva. E Gunny va in onda martedì 26 aprile alle 23.25 su Rete 4. Grazie a Sara Sagrati. Franco, auguro a te e a tutti i tuoi ascoltatori buona Pasqua e a risentirci la prossima settimana. Ebbene, grazie anche a tutti gli amici di Film TV, una serena Pasqua anche a loro. A questo punto noi siamo arrivati alla terza e definitiva traccia del film misterioso di oggi. Ti rendi conto di come stai, Jack? Sei preoccupato per la sorte di una donna poliziotto e vorresti prendere l'aperitivo con una che ha provato ad ammazzarti. Hai sentito cosa ho detto? Secondo te questo vecchione è il suo fidanzato, è l'unica foto che c'è. Allora ci andrò da sola a Detroit, va bene? Beh, qui ci sono un sacco di indizi, un nome, un lavoro, una donna poliziotto, una città, Detroit. Se avete indovinato, ed è l'ultima possibilità che avete, la rosa purpurea @radio24.it per provare a vincere il Blu-ray di questo film. A proposito di Blu-ray e di DVD, prima di passare allo svelamento del vincitore della scorsa settimana, in settimana invece sono stati assegnati gli Italian DVD e Blu-ray Awards, che è l'Oscar dei DVD italiani, una manifestazione che ormai da parecchi anni punteggia un po' quella che è la stagione del Blu-ray, dell'on video, un po' come abbiamo fatto da sempre noi qui alla Rosa Purpurea su Radio 24, cioè raccontando i DVD e il Blu-ray per quello che danno in più rispetto al film, che rimane ovviamente il film che è, e quindi ci può essere un grandissimo DVD per un film così così, o ci può essere un bellissimo film che ha un'uscita un video che non aggiunge molto. E siccome noi siamo convinti che Blu-ray e DVD possano invece dare moltissimo in termini di informazioni, contenuti speciali, di tutto quello che c'è intorno al film, ecco che è stato sempre il nostro taglio qua, ed è il taglio, diciamo così, di questo premio, dove si premia non il film ma proprio la produzione, l'uscita di un home video. Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino ha vinto come miglior DVD appunto agli Italian DVD e Blu-ray Awards, realizzati in collaborazione con Univideo e Regione Lazio, e assegnati alla Casa del Cinema di Roma. Le nomination sono state decise tra l'altro da oltre 400 giornalisti ed esperti di settore, e quindi, come dire, sono ben ponderate. Fra gli altri, premiato anche Bahia di Giuseppe Tornatore come miglior DVD italiano. E questo era quello che volevamo dare a questa importante manifestazione come appunto risultato, come cronaca dell'evento. Dicevamo però, torniamo indietro di 7 giorni e andiamo a sentire una delle tracce che vi avevamo fatto ascoltare la scorsa puntata. Se ne stanno andando! Non per scelta! I loro mezzi non possono uscire dalla rete. Andrebbero in avaria su questo terreno. E questo veicolo? Ovviamente no. Ora dove andiamo? Abbi pazienza, Sam Flynn. Avrai presto tutte le risposte che cerchi. E allora, si trattava di Tron Legacy. Le clip che vi abbiamo proposto erano venute fuori proprio dal film Tron Legacy, che all'inizio di questa stagione era arrivato al cinema 25 anni dopo il suo papà, ovvero il Tron della Disney, che era stato un film rivoluzionario, soprattutto per i mezzi che c'erano nell'epoca, era se non erro il 1982, nella quale insomma c'erano la possibilità di creare realtà virtuali, erano ancora abbastanza grezze, però ci avevano provato, erano stati i primi, se vogliamo, a provare. E stavolta il sequel con invece tutto quello che la tecnologia ci mette a disposizione al giorno d'oggi. Siccome la Disney, che ha editato questa edizione appunto in Blu-ray e DVD, è stata particolarmente munifica e ci ha dato a disposizione dei nostri ascoltatori due copie del Blu-ray bellissimo di Tron Legacy e due copie del Blu-ray del primo Tron, di quello originale, noi abbiamo premiato quattro ascoltatori, che sono Maria Antonia Daga di Robbiate, Lecco, Luca Ricci di Urago d'Oglio, Brescia, Dina Malagamba di Bussero, Milano, tutti in Lombardia, ma c'è anche Giorgio Cozzolino di Portici, provincia di Napoli, a rappresentare gli ascoltatori del Sud, che riceveranno appunto o il Tron Legacy o il vecchio Tron originale in Blu-ray. E per farci spiegare appunto i contenuti speciali e l'edizione on video di questi due film, noi abbiamo già in collegamento Claudio Poffi. Ciao Claudio, buona Pasqua! Ciao Franco, buona Pasqua a tutti. Edizione Disney come al solito superlativa, sia per Tron Legacy che per il primo Tron. Sono varie uscite un video. Per quanto riguarda Tron Legacy, anche in DVD c'è tantissima attenzione alla qualità e quindi diverse le uscite Blu-ray alta definizione, perché abbiamo per Tron Legacy non solo l'edizione 2D ma anche un cofanetto che include, oltre a Blu-ray 2D, anche la versione 3D, che è possibile visionare solo se si è in possesso del televisore e degli occhiali 3D attivi, per avere praticamente il risultato equivalente alla visione cinematografica sempre 3D. Tra l'altro è presente anche la copia digitale per scaricare via internet la versione del film a definizione video standard. Sono entrambi di notevole qualità, ha sorpreso moltissimo la qualità soprattutto del primo Tron, superlativa per entrambi. C'è l'audio DTS in italiano in entrambe e DTS ad alta risoluzione per gli inglesi. Sono tantissimi gli extra disponibili con tanti approfondimenti sulla lavorazione, soprattutto per Tron Legacy, dove si è potuto lavorare molto di più dietro le quinte. Insomma, sono veramente notevoli. Tra l'altro c'è anche presente il videoclip The Rez dei Daft Punk, che hanno firmato la formidabile colonna sonora. Arriva invece in un video, in videoteca, In un mondo migliore, premio Oscar per il miglior film straniero proprio nello scorsa edizione degli Oscar, lo scorso mese di febbraio, era tornato in sala, adesso arriva in un video, ascoltiamo. Almeno dimmi se aveva un coltello. Non lo dico a nessuno, giuro. Non c'era nessun coltello, smettila per favore. Se tu lo picchi, lui ti picchia. Poi lo picchi tu e va avanti all'infinito. Non lo capisci? È come una guerra. Non se colpisci duro la prima volta. Sei tu che non capisci, papà. Ne ho cambiate di scuole. Ora nessuno mi tocca più. Orfano di madre, il giovane Christian torna in Danimarca con il padre e nella scuola in cui si trasferisce incontra Elias, coetaneo timido e preso spesso di mira dai bulli. La solitudine, le reciproche fragilità avvicineranno i due, che insieme percorreranno un cammino verso il male di fronte agli sguardi impotenti delle rispettive famiglie. L'intensa e drammatica opera di Susan Bier, allieva di Lars von Trier, arriva in DVD e Blu-ray da CG On Video. La qualità per le immagini è veramente notevole, soprattutto per i Blu-ray. Abbiamo questa doppia traccia DTS ad alta risoluzione, italiano e danese, sono entrambi di notevole qualità. Come gli extra, purtroppo c'è solo la galleria foto e il trailer. Allora, per cercare di riequilibrare un po' le scelte di Film TV, che ha fatto due film di guerra nel weekend di Pasqua, noi vogliamo chiudere le recensioni in un video con la Bibbia. Insomma, più di così non potevamo francamente fare. Per essere in clima pasquale, il grande capolavoro, il grande Colossal di John Huston, 1966, ascoltiamo. Ma il Signore, al posto di Abele ucciso da Caino, aveva dato a Eva un altro figlio. E Adamo gli aveva imposto il nome di Set. E dalla discendenza di Set, attraverso le generazioni, nacque Noè. E Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Originariamente il compianto produttore Dino De Laurentiis aveva pensato di portare l'intera Bibbia su grande schermo, coinvolgendo vari registi, tra cui Fellini e Kurosawa, ma l'impresa per il Vecchio e il Nuovo Testamento si rivelò troppo grande e alla fine il risultato fu la realizzazione comunque di un colossal che racconta i primi 22 capitoli del libro della Genesi, significativa tra l'altro la presenza di Arnoldo Fuà nel ruolo della voce narrante che abbiamo ascoltato. Affascinante nella messa in scena, la mastodontica pellicola fu diretta ma anche interpretata dall'agnostico John Huston. Da Fox Home Entertainment arriva il Blu-ray. I 175 minuti del film sorprendono soprattutto per la qualità video. È una pellicola il cui formato originale non fu il consueto 35 ma bensì 65 mm. Buono l'audio con il DTS ad alta risoluzione per l'inglese. Come extra abbiamo solo il trailer. Grazie Claudio, appuntamento la prossima settimana. A presto, ciao. E abbiamo chiuso la nostra puntata pasquale della Rosa Purpurea. Appuntamento fra 7 giorni sarà la settimana di Thor, l'ennesimo supereroe dei fumetti americani che arriverà nei cinema italiani. Grazie per averci seguito, un saluto da Franco D'Assisi.